lavori di domani. Diana Marino. Tutti sappiamo che il digitale ha cambiato i nostri metodi di lavorare, di comunicare, di divertirsi, in modi che 10 anni fa non erano minimamente contemplati. Ma ha cambiato anche il nostro modo di preparare i cibi e di degustarli. E sì, anche lo chef di cucina scopre che giorno dopo giorno le tastiere invadono il suo regno, comanda il forno da un touchpad, raccoglie le ricette in un database e ordina il pesce con un'email. Anche i soggetti più resistenti al microchip prima o poi si devono adeguare. Dal termometro alla bilancia scompaiono le versioni analogiche degli strumenti di lavoro più semplici, mentre quelli più complessi, dall'abbattitore alla macchina del sottovuoto, non hanno più libretti di istruzioni cartacee, ma CD o siti da consultare prima dell'utilizzo. Anche qui, però, le generazioni contano. Una certa fascia di operatori del settore, diciamo i senior, arruolano figli e nipoti e appaltano l'interfaccia di tutto che è digitale alla seconda o alla terza generazione. La fascia di età media mantiene il piede in due scarpe e la generazione nativa digitale fotografa un piatto con il telefonino, lo condivide sui social network, segue corsi online per piatti che non cucinerà mai perché in qualche modo fanno paura, diciamo, il piatto virtuale ha preso il sopravvento, ma ci sono persone e siti che possono aiutare anche i nativi digitali a non aver paura di cucinare cibi anche complessi, e a questo si dedica Nicolò Zambello, chef digitale. In che cosa consiste il tuo lavoro? Il mio lavoro consiste nel creare video riguardanti il mondo del food, quindi del mondo del cibo, non solo ricette ma esperienze, e condividerli su tutti i social media. Parliamo della tua giornata tipo, sì. In che cosa consiste il tuo lavoro? Ma ormai Chef in Camicia è una vera e propria azienda, per cui siamo uno staff di più di 25 persone. Il mio lavoro ogni giorno è differente, dall'attività commerciale, quindi andare a trovare aziende che vogliono lavorare insieme a noi, a coordinare i team, ma soprattutto dirigere la parte di creatività, quindi pensare ogni giorno a che tipo di contenuti creare per i nostri utenti. E qual è la forchetta di guadagno per un lavoro come il tuo, diciamo anche a seconda della seniority? Cioè tu e come altre persone avete messo in piedi sicuramente un'impresa, però il fatto di farlo in modo digitale, cioè insegnare le ricette digitali, aumenta, monetizza, insomma, la vostra capacità. In realtà la forchetta è, dipende da quanto sei bravo e dipende da quanto sei grande, nel senso, la monetizzazione, diciamo, dai canali social alla YouTube è una parte residuale di quello che è il business. La maggior parte degli incassi derivano direttamente dalle aziende che comprano gli spazi pubblicitari all'interno dei tuoi video. Fondamentalmente il guadagno è un guadagno se uno si mette in proprio, se ha la capacità di gestire questi siti come se fossero delle imprese. Hai detto la cosa più giusta. Chef in Camicia, secondo me, ha avuto la chiave di volta giusta quando ha fatto del ruolo del, diciamo, influencer barra blogger una professione vera e propria, ha professionalizzato quel ruolo. Ad oggi tutti coloro che fanno quel ruolo lì sono sempre stati un po', diciamo, casalinghe, dilettanti, nel senso, non hanno mai dato una vera veste professionale a questo ruolo, e questo secondo me è stata la nostra chiave di successo, soprattutto nella parte commerciale. Come ti sei formato per arrivare a essere uno chef digitale? Cioè in cucina a casa della mamma? Guarda, a casa della mamma sì, ma a casa del padre soprattutto, perché è mio papà che cucinava in casa e cucina tuttora, è bravissimo. Da lui ho sempre appreso l'arte, soprattutto perché aveva miliardi di libri in casa di cucina, per cui sono cresciuto leggendo la cucina italiana e guardando i programmi del Gambero Rosso, e da autodidatta, diciamo così. Invece la tua formazione vera e propria, cioè lo studio, qual è stato? Io ho fatto economia, poi ho lavorato in un'azienda del settore del real estate, valutavo fondi immobiliari, non era decisamente il mio. Da lì ho iniziato con qualche amico a fare qualche startup, una l'abbiamo anche venduta, è andata molto bene, e appunto avevo capito un po' come si intraprendeva un po' un'impresa. Da lì ho capito che c'era uno spazio nel mercato per creare contenuti digitali legati al mondo del food che in Italia nessuno faceva, cioè tutti facevano ricette piuttosto che, ma nessuno le affrontava in una maniera davvero innovativa, un po' come fanno in America. La tua professionalità, il tuo mestiere di oggi e di domani non è slegato dal mettere su un'impresa? Come avete fatto, con che capitale, quali sono stati gli investimenti e le persone e le professionalità iniziali che avete dovuto mettere in piedi, insomma, come si fa? Guarda, è stata una storia molto bella, nel senso che inizialmente Chef in Camicia è nata per fare eventi, quindi facevamo piccoli catering, proprio vera e propria ristorazione, per cui ti dico che siamo nati con un capitale sociale di un euro, perché abbiamo costituito la società con la prima commessa che abbiamo preso, per cui ci siamo pagati il notaio con il primo lavoro di catering che abbiamo preso, per cui le professionalità erano la mia, che ero laureato in economia, un ragazzo appunto più votato al mondo della cucina, quindi cuoco, e un ragazzo che invece si occupava un po' più di pubbliche relazioni. Da lì la società si è sempre più strutturata. Io dico sempre una cosa: nel momento in cui abbiamo intrapreso la deriva arriva digitale, quindi da quando abbiamo iniziato a creare video, secondo me la cosa più importante è avere un team grafico. Prima di tutto si vende con gli occhi, per cui presentazioni, tutto ciò che è marketing, tutto ciò che è comunicazione rispetto all'impresa e alle aziende che scelgono di venire con te è la cosa più importante. Per cui io ho investito subito nei designer e nei videomaker. Quanti milioni di click avete? Da che cosa si misura, insomma, il successo del tuo mestiere e di quello che realizzi? Milioni di click sono tanti. Ti posso dare un dato: abbiamo fatto circa 80 milioni di visualizzazioni negli ultimi 3 mesi, per cui per dirti quante volte vengono visti i nostri video. Però ti dico questo: la quantità non è l'unica cosa, nel senso che soprattutto se tu, visto che parliamo poi di impresa, se vuoi lavorare con le aziende non basta fare un numero di click molto alto, ma serve soprattutto che il tuo contenuto sia un contenuto di qualità. Perché se sei un sito di intrattenimento e fai tutti quei contenuti che vanno virali ma che sono volgari o che sono comunque poco sposabili da parte delle imprese, diciamo che il numero serve a poco ma serve di più la qualità. Qualcuno anche ha puntato su di voi, diciamo, soldi e un'iniezione di denaro. Sì, assolutamente. Abbiamo ricevuto un primo aumento, abbiamo fatto 2 aumenti di capitale, un primo round da 150.000 euro, proprio all'inizio, era il 2017, avevamo appena intrapreso questa attività. Questo ci ha permesso di crescere, di strutturarci, e adesso invece abbiamo chiuso un secondo round di aumento di capitale da 1.200.000 euro, tra equity e debito. Quali percorsi consigli per, diciamo, formare la tua figura? Quello che è un po' il mio consiglio è quello di... Io sono un divoratore di video online, mi formo tantissimo su YouTube, su Facebook, cioè guardo tantissimi contenuti. In realtà non esiste un'università per questa cosa qua, ti devi formare da solo. Vostre ricette più gettonate, oltre che i lavori più gettonati, quali sono? Abbiamo questo format che ripropone le ricette degli chef stellati, però come le farebbero a casa loro, quindi in una maniera che poi possono essere rifatte a casa. Abbiamo fatto questi paccheri da Vittorio, che poi costano 35 euro ma sono dei semplici paccheri al pomodoro, che sono andati virali un po' perché la gente diceva: ma com'è possibile spendere 35 euro per un paccheri al pomodoro, e dall'altra parte perché comunque la ricetta era molto carina. Date anche i costi di queste ricette, quindi dalla A alla Z, cioè dalla spesa fino alla capacità, insomma, di mettere in atto e della preparazione e anche la presentazione. Abbiamo studiato questo format che chiamiamo Economics, diciamo così, che è un po' pensato per gli studenti fuori sede, per cui abbiamo, non so, viene il video che si chiama San Valentino a meno di 10 euro, per cui sei con la tua fidanzata ma non vuoi spendere tanto, ti proponiamo un menù che possa comunque essere chic e farti passare una bella serata. Come vedi questi nativi digitali dal punto di vista della tavola? Secondo me oggi il mondo del food è passato dall'essere semplicemente un qualche cosa che riguarda l'aspetto gustativo all'essere qualcosa anche di intrattenimento, il cosiddetto foodtainment, nel senso, come dicevi tu prima, tantissimi ragazzi passano le giornate magari su Instagram a guardare dare ricette che non faranno mai, però fa gola, piace tutto, per cui secondo me ne è passato anche un po' un aspetto pornografico, se così possiamo dirlo, che comunque è anche quello che rende affascinante e che comunque non deve essere visto per forza in maniera negativa, vuol dire che comunque quei prodotti poi li cercheranno nei ristoranti, per cui ci sarà comunque qualcuno che realizzerà quelle ricette. Un po' il modello di business, numeri, fatturato, da quando siete partiti, quanto siete cresciuti, in quanto tempo? Allora, noi il primo anno che abbiamo fatto questo tipo di attività, diciamo digitale, abbiamo fatto un primo anno di eventi in cui il nostro fatturato era di 30.000 euro, per cui nullo, ed era il 2015. L'anno dopo, il 2016, abbiamo fatto circa 150.000 euro con l'inizio dell'attività digitale. Nel 2017 abbiamo fatturato 320.000 euro, 2018 abbiamo chiuso a 650.000 euro, quest'anno dovremmo chiudere intorno al 1.3 milioni e l'anno prossimo abbiamo un obiettivo di fatturato intorno ai 3.5 milioni. È un bel giro per una cucina digitale. Dammi una ricetta così che ti piace. Io sono legatissimo, un po' perché lo facevamo sempre con i miei soci, a questo piatto che sono gnocchi burraciughe. Noi quando abbiamo iniziato questa attività, che facevamo i catering così, ovviamente dovevamo pranzare anche noi, quindi buttavamo su questi gnocchi, c'era un po' di burro, 2 acciughe sott'olio e un pochino di limone, era quella ricetta che mi fa sentire a casa e che mi fa sentire vicino ai 2 ragazzi con cui abbiamo creato questa azienda. Secondo te il tuo lavoro ha futuro? È un lavoro di domani? Assolutamente sì. Perché? Perché in realtà noi l'abbiamo sposato per il mondo della cucina, ma potrebbe essere su qualsiasi altra verticale. Non so se conoscete la realtà di Frida, però voglio dire, è una realtà simile che è nata sul mondo dell'empowerment femminile, ma cosa lo vieta che possa nascere una realtà di divulgazione sul mondo della scienza? Non lo so, del lifestyle? Assolutamente, secondo me è una realtà di domani, è già una realtà di oggi, ed è secondo me il modo di approcciare, perché può chiudere Facebook, può chiudere Instagram, ma quando diventi un media importante ti interessa poco, nel senso che non ci sarà più Instagram, ma ci sarà Facebook, ci sarà YouTube, ci sarà TikTok. La tua presenza è spread su tutta la piattaforma digitale. La vera ricetta, insomma, per diventare uno chef digitale qual è? Secondo me la vera ricetta per cavarsela la vita in realtà è cercare di fare della propria passione un lavoro. E tu hai passione per la cucina? Beh, da quando ho 10 anni.